uomini con la giacca mi invitano ad uscire. Gli uomini con la giacca non apprezzano il mio stile, ma io giuro non sapevo, non potevo immaginarlo. In fondo con la giacca non sto niente male. Se lo avessi saputo prima, mi sarei organizzato, mi sarei anche pettinato. Ma sono le tue piccole occasioni per respingermi, sono le mie piccole occasioni per non arrendermi. Gli uomini con la giacca si fanno più insistenti, gli uomini con la giacca accompagnano di là. E ti ripeto, non sapevo, non potevo immaginarlo. E poi io con la giacca non sto niente male. Capita di dimenticare un piccolo particolare. Dammi tempo, potrò rimediare. Ma sono le tue piccole occasioni per respingermi. Sono le mie piccole occasioni per non arrendermi. E mentre guardi ricordati, ci vuole più coraggio a te.